un artista indipendente e vuoi promuovere la tua musica? Inviaci le tue produzioni al nostro indirizzo mail. Con Circuito Radio Net Web, la tua musica non avrà confini. Ed ora, in diretta con voi, il Mangia. Buon divertimento. Eccoci qua, ci siamo puntualissimi, benvenuti a tutti all'interno del programma dal titolo Mangia Show. A condurre in studio il vostro amico Andrea o il vostro amico Mangia. È un po' che non ci sentivamo, dopo l'influenza eccomi tornato bello pimpante all'interno di questo contenitore giornaliero in onda su Radio Oltrepò, ma anche su Radio Stelle e sul circuito Radio Net Web, circuito Radio Net Web. Benissimo, come state? Tutto bene? Avete trascorso bene la settimana? Mi auguro di sì. Per me è stata un po' una settimana, diciamo così, farraginosa, usiamo questo termine molto molto vetusto. Ora però siamo tornati belli belli allegri e pronti per proporvi un'ennesima scaletta musicale all'insegna della musica Creative Commons e all'insegna delle nostre chiacchiere, delle nostre curiosità che leggiamo qua e là in giro per il web. In apertura vi ricordo tutti i vari contatti, se magari volete interagire con questa trasmissione basta visitare il sito del mio blog www.andreamangiarotti.com. Vi trovate tutte le informazioni nel caso per essere grandi protagonisti e per esprimere i vostri pareri oppure le vostre considerazioni sul programma e sulla radio che state ascoltando. Quindi è tutto molto semplice, www.andreamangiarotti.com nel mio blog ufficiale, potete diventare grandi protagonisti e dialogare con me se vi va di qualsiasi argomento. Nella parte destra del sito trovate l'archivio dei miei post dove potete leggere insomma ciò che scrivo, magari dalle banalità alle cose un po' più serie. Sempre ovviamente vorrei sottolinearlo, scritte in maniera molto molto goliardica ed amatoriale, come del resto anche questa trasmissione che è direi curata proprio in modo, mi stavo un attimo impappinando, sono le medicine insomma che ho preso questa settimana, dicevo anche la trasmissione è curata così in modo molto molto goliardico e principalmente prodotta per passione. Se vi piace, vi ricordo, la potete trasmettere tranquillamente nella vostra web radio, perché la licenza musicale è ovviamente Creative Commons. Non passiamo canzoni del marchio SIAE, solo grande musica libera. Vi regalo la prima canzone, che è dell'artista piacentino Dark Light, un caro amico, e mi sembra doveroso insomma apertura del programma con una sua canzone estrapolata da un suo ultimo lavoro molto molto interessante, Dark Light. delle tante notizie dell'ultima ora che abbiamo estrapolato dalla ADN Kronos è sicuramente la situazione libica. Avanzano le truppe del Rais, bandiera verde sventola da Tobruk e in altre zone verso la Cirenaica. Continuano ad avanzare le truppe fedeli al Muammar Gheddafi. I ribelli libici si starebbero ritirando dalla città di Ashdabiya nella Cirenaica, ormai in mano alle brigate del colonnello. Lo riferisce la TV satellitare Arabia. Abbiamo ripulito la città, dice per l'appunto i soldati fedeli a Gheddafi, abbiamo ripulito la città da mercenari e da terroristi legati all'organizzazione di Al-Qaeda, ha detto alla TV di Stato, annunciando la riconquista delle città dell'est, per l'appunto della zona est della Libia, quindi ci stiamo spostando verso la Cirenaica. Ma gli scontri continuano, i ribelli cercano di difendersi dagli attacchi continui dell'esercito di Gheddafi. E un'altra notizia che sicuramente terrà banco per tutta la settimana e magari anche più avanti, anche per tutto il mese in corso, è sicuramente l'incubo nucleare che ha colpito in questi giorni il Giappone. Oltre allo tsunami, anche l'incubo nucleare con le centrali nucleari che, come avete potuto vedere in TV, hanno, diciamo così, non dico che si siano esplose completamente, però stanno continuamente emettendo le radiazioni tossiche sui cieli giapponesi, e pare proprio che l'incubo nucleare tocca anche la capitale Tokyo. C'è molta preoccupazione e staremo a vedere, insomma, gli sviluppi nelle prossime ore. Andiamo avanti ora con un altro bel brano dal titolo Angel. Sei su Il Mangia Show. Thank you. un gran bel disco, era Angel a cantare Kafi Kay, una canzone molto molto particolare che ce la stiamo ascoltando tutta all'interno del Mangia Show. Un'altra notizia che sarà destinata a riempire le cronache mondane per questo mese è sicuramente il caso Ruby. Questo articolo è sempre reperito dalla ADN Kronos Online. Caso Ruby, prostituzione minorile. Da settembre 2009 Karima aveva già 16 anni. Milano, la procura di Milano ha chiuso le indagini, scusate, a carico di Nicole Minetti, Emilio Fede e Lele More, sospettati nell'ambito del caso Ruby. Un atto notificato oggi che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. I tre rispondono di induzione nel favoreggiamento nella prostituzione dall'inizio del 2009 fino al gennaio 2010 e di prostituzione minorile della giovane Ruby Karima dal settembre 2009 a maggio 2010. Secondo la procura, i tre indagati avrebbero commesso reati contestati dall'inizio del 2009 fino al gennaio 2010. Pensate un po'. Si dilatano dunque i tempi dei reati contestati dai PM. Evidentemente gli inquirenti ritengono che ci sia stata una gestione della giovane marocchina iniziata molto tempo prima della famosa cena di Arcola del 14 febbraio 2010, cioè nel settembre 2009, quando la ragazza aveva ancora 16 anni. Se non ero, scusate, ma mi è sparita la pagina, la vado a recuperare. Nello stesso periodo il direttore del TG4 conobbe la minorenne durante un concorso di bellezza a Taormina e secondo quanto hanno ricostruito i magistrati milanesi sono 13 gli incontri avvenuti ad Arcole tra Silvio Berlusconi e Ruby Karima. Qua addirittura hanno citato anche i giorni, vediamo un po', si tratta di incontri avvenuti il 14, il 20, il 21, il 27, il 28 febbraio 2010, insomma qua si può dire cos'è, un incontro settimana quasi, ma però attenzione, 20-21, quindi ha fatto, come si suol dire, la doppietta, 20-21, 27-28, però cioè, poi c'è un 9 marzo successivo, il 4, il 5, il 24, il 25, il 26, l'1 e il 2 maggio 2010, insomma, una domanda sorge spontanea, ma non so, o che ci siano distributori di Viagra, non so, lì, insomma sono abbastanza ricorrenti questi incontri. Vabbè, queste sono le cose che scrive la DN Kronos Online, non le abbiamo riportata così proprio come è scritta, abbiamo cercato di darvi una notizia un pochino di costume, tanto per non pensare solo a cose negative, insomma anche a farci due risate sul sistema politico italiano. Ora arriva una grande canzone del finlandese Doc, la ripropongo, il titolo è Peace of Music. The cost sharing debate tends to focus on economic principles. Does file sharing reduce record label profits? Yes, it does. No, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. He said, she said, he said, she said. We've taken a different focus. We honestly don't care if the record labels lose money. It is illegal for me to send a piece of music in email. And if copyright is to be enforced in this new environment, that means that every piece of private communication must be monitored by law enforcement and by corporate interest groups in order to make sure I don't send their piece of music in private communication. They're also attacking not only the postal secret, but something called the common carrier principle, which means that the messenger is never responsible for the contents of a message. So, Lady Justice has a problem. On one side of the scale is one income source for one entertainment industry, essentially luxury consumption. On the other side of the scale are two foundations for our democratic society. Piece of music. Nella bellezza della stereofonia, in segnale stereo FM, sulle magiche frequenze, state ascoltando il Mangia Show, contenitore settimanale di musica, informazione e tanto divertimento. Ascoltalo saldamente, memorizzando le nostre magiche frequenze, in FM stereo, in tutto il mondo. Imagine Ho sentito un jingle strano. Ah, vuole dire qualcosa? Prego, lei il microfono. Volevo solo dire che è veramente un piacere essere qua su queste memorabili e direi anche fantastiche frequenze in stereofonia. Se, va bene, sembrava di essere tornati indietro, insomma, ci mancava solo l'eco e niente. Va bene, la ringrazio per aver fatto questa sua incursione nel nostro programma. Vuoi ricordarlo lei che cosa stanno ascoltando? Prego. Rapidi e veloci come sommergibili, cari amici, vi ricordo che siete sempre all'ascolto di questo grandioso programma sui nostri megacicli, ovviamente, questi megacicli che si espandono in tutto il mondo tramite il segnale in modulazione di frequenza stereo. Non abbiamo più il segnale in mono, siamo in stereo e vi invito veramente ad ascoltare questa trasmissione molto molto accattivante e al tempo stesso piena di tanta sorpresa, tante sorprese che ascolterete qua a Disco Ring. Vabbè dai, non esageriamo, qua passa un po' di tutto, è passato questo personaggio che pensa di essere ancora nel 79 e annuncia così i dischi, no? Ha fatto anche un jingle, poi vedremo se nelle prossime puntate ci verrà a trovare qualche altro, stavo dicendo qualche altro pazzo, comunque no, vediamo un po' che ci verrà a trovare nelle nostre prossime puntate. Ora invece inauguriamo l'angolo del cinema, il vostro angolo settimanale per scoprire che cosa c'è al cinema di bello o di meno bello che magari potete vedere già da questa sera. Allora, i film in programmazione per il mese odierno sono tanti e sono molto molto interessanti. Partiamo insomma con i riempipista delle sale, passatemi questo termine tra virgolette, che insomma si stanno dando da fare per ottenere un sacco di successo, soprattutto dal botteghino. C'è sicuramente Manuale d'amore 3 che si comporta molto bene. Poi vi segnalo Amori e altri remake, Cigno Nero, Sono il numero 4, Carmen in 3D, The Flighter, Piranha in 3D, La vita facile, Easy Girl, Tutti al mare, Ringo, Il rito, Only Water. E poi abbiamo anche Amici miei, quando, come tutto ebbe inizio, mi sembra qualcosa del genere, una specie di rivisitazione del grande capolavoro di Mario Monicelli, è uscito anche questo. E poi c'è anche il film di Dylan Dog, dal fumetto di un noto personaggio che è nato nelle mie zone, nell'Oltrepò. C'è al cinema proprio il film del fumetto Dylan Dog, andateli a vedere e poi fateci sapere se vi va le vostre preferenze in fatto di cinema. Direi di velocizzare un po' il ritmo con questo bel brano di Felix DJ. Sto veramente trasmettendo una traccia via l'altra da questo album di Felix perché sono canzoni stupende che ci fanno anche ricordare magari un periodo della nostra vita passata dove ci divertivamo proprio a ballare in disco. Siete all'ascolto del Mangia Show. Vabbè dai, dillo te la grande. Sulle magiche frequenze rumoranti in stereofonia, per voi il Mangia Show, questa trasmissione di intrattenimento musicale condotta in studio, in voce e anche al microfono, ovviamente in voce, scusate, c'è Mr. Mangia. Forza con l'autopista, c'è da spostare una macchina. Direi che l'hai proprio rovinata la canzone, la rimettiamo dall'inizio, va dai, perché non si può ascoltare in questo modo. Partiamo con la canzone di Felix dall'inizio, senza la mia vociaccia che ci parla sopra. Buon divertimento col Mangia Show. collaborare col Mangia Show, www.andreamangiarotti.com. Scuso, in precedenza ho citato The Island Dog, il film, e mi sono dimenticato di citare l'autore, cioè Tiziano Sclavi, che è nato a Broni il 3 aprile del 53. È un nostro, insomma, concittadino, un oltrepavese, e ha iniziato molto giovane a disegnare fumetti, si è fatto veramente le ossa in giro per i giornali locali, fino a che ha creato questo personaggio misterioso di The Island Dog. È bello che i racconti proprio di Dylan Dog sono ambientati proprio nella, diciamo così, nella pianura padana, in specifico in Oltrepavese, in mezzo alla nebbia, insomma, questi inverni molto molto direi misteriosi. Così lui ha dato vita a questo personaggio che ora lo potete leggere nei vari fumetti di edicola, ma se vi va lo potete anche vedere al cinema, quindi questi giorni sicuramente nella vostra sala, oltre ai film consoni, comici, meno comici, ci sarà anche The Island Dog. Purtroppo il Grinta è stato tolto, come anche Varlanzasca. Vabbè, erano un paio di settimane che giravano nelle sale, sono dei generi non proprio commerciali, tipo, non so, magari in western, che cercano di far tornare alla ribalta. Non è facile, però, insomma, magari con il vostro sostegno al cinema, anche se non siete appassionati di questo genere, però potrebbe essere anche un modo per scoprire un nuovo genere cinematografico che viene un pochino messo da parte perché è ritenuto vecchio e ritenuto, insomma, fuori moda. Però sosteniamo anche questi tipi di film che magari non fanno cassetta, come si suol dire, per usare parole molto terra terra, però che possono essere intriganti e al tempo stesso interessanti. Andate al cinema, andiamo tutti al cinema. E ora invece vi regalo un ennesimo singolo del gruppo Rain, che a me piacciono molto, scaricato, vi ricordo, da yamendo.com. voi andate lì, potete scaricare tutta la discografia dei Rain, che hanno scelto anche loro di pubblicare le loro opere su licenza Creative Commons, quindi non ha nulla a che vedere con la CIA. Potete scaricare le opere dei Rain e poi ascoltarvele nell'iPod, nel cellulare, eccetera eccetera. Questa influenza mi ha un pochino rimbambito, scusate per eventuali papere. dall'album dei Reni ho deciso di farvi ascoltare L'erba ai lati della strada, che mi sembra una canzone che sicuramente apprezzerete. Siete sempre all'ascolto del Mangia Show e ora spazio alla grande musica dei Rain. E non è stato facile arrivare fino a qui senza scendere a patti con la porta di casa. E non è mica semplice sorridere oltre i guai, andare contro vento senza un filo di poesia. E tu mi dici sempre di restare umano, di non scoprire il fianco. E tu mi sembri sempre tutto quello che vorrei. Di cui non vergognarmi, avere un passaporto di cui fare a meno. Per questo preferisco gli zingari e i loro furti reali o inventati dai giornali. Per questo preferisco le strade di periferia. Sopra il cuore, il sole che si allunga è dentro la mia stanza, i fiori che schiudi senza farci neanche caso, le distanze, i chilometri. Senza farci neanche caso, le distanze, i chilometri. L'erba ai lati della strada, l'erba alta in primavera, l'erba che ci sarà sempre, quella che ieri non c'era, quella che spunta nel mentre, l'erba utile a nessuno, invisibile, ignorata, buona, nulla, calpestata, l'erba incolta e degradata, cattiva che non muore, neanche se tagliata, l'erba tenera, innocente, inquinata, intossicata, l'erba ai lati della strada, l'erba verde e profumata, che profuma più che mai. Grandissimi, grandissimi, grandissimi. Stavo dicendo grandissimi, grandissimi, è entrato qualcuno in studio, vuoi venire anche te a salutare? Va bene, dai, saluta. Sono Alfonso Signorini, insomma questo suo programma mi piace veramente tanto, le faccio complimenti e spero che lei possa venire ospite alla mia trasmissione Crespera. Beh, ovviamente era uno scherzo, vabbè. Salutiamo anche il grande Alfonso, Alfonsone Signorini, alcuni lo definiscono il, non so, il giornalista politico preferito dal premier, non lo so. Di solito si cita sempre Santoro così, però qualcuno pensa anche che anche Signorini faccia politica, ma nei suoi programmi. Se avete visto l'intervista a Ruby, magari vi siete fatti un'idea, insomma, vabbè, queste sono le mie considerazioni. Salutiamo anche, insomma, chi è che non la pensa come sottoscritto. E ora leggiamo un'altra notizia, sempre estrapolata dal web, questa volta è una notizia che ho reperito da Google News, fresca fresca, e parla proprio sempre della situazione libica. Affermano: il colonnello minaccia una guerra santa contro l'Occidente, pensate un po', al quale il Consiglio degli Insorti ha chiesto di assassinare il leader libico. Forse queste sono le sue, diciamo così, sue parole così un pochino strane. Se l'Occidente si comporterà come in Iraq, la Libia uscirà dall'alleanza internazionale e ci alleeremo, pensate un po', con Al-Qaeda e dichiareremo la guerra santa, l'ha detto il leader libico Muammar Gheddafi in un'intervista concessa al quotidiano Il Giornale, in cui il colonnello parla a ruota libera, e aggiunge anche un pochino così, no? Ruota libera molto molto fuori di testa, secondo me, sostenendo tra le altre cose che il leader francese Nicolas Sarkozy ha un problema di disordine mentale e che il Consiglio Nazionale Libico, l'autogoverno degli insorti di Bengasi, non esiste, è solo una facciata, e che il popolo libico è con lui. In questi giorni ho visionato la TV libica, adesso il nome preciso non me lo ricordo, però se cercate su Google Libia TV, scritto con i lunga, trovate proprio il sito della TV libica, e dal satellite si vede, oserei dire 24 ore su 24, sembra tele Gheddafi, praticamente mostrano sempre manifestazioni pro Gheddafi e si vedono interviste, praticamente direi alcuni criticano il TG4 di Meglio Fede, ma qua siamo veramente al massimo proprio della dittatura mediatica, praticamente non viene proprio mostrato l'altro lato della situazione libica, l'informazione è proprio senso unico e niente, non penso ci sia in Europa qualcuno che possa credere a ciò che trasmette la TV governativa libica. Vabbè, loro hanno affermato più volte nei loro passaggi all'interno dei talk show sempre costruiti sulla figura di Gheddafi, insomma hanno mostrato questi passaggi accusando anche noi italiani di aver escluso Gheddafi, e poi continuano sempre a definire i terroristi insomma governati da Al-Qaeda, e insomma ogni giorno ne sentiamo una nuova. Questa qua invece, ora abbiamo Gheddafi che si vuole alleare con Al-Qaeda, è un po', diciamo così, controverso Gheddafi, magari non so, magari una pausa, magari potrebbe anche andare in pensione e rilassarsi un attimo, perché anche quello che afferma lui direi abbastanza fuori di testa. Vabbè, speriamo si risolva il tutto pacificamente, ma ho i miei dubbi, perché qua le vere notizie noi non le sappiamo, e chissà veramente com'è la situazione proprio lì in Cirenaica e non solo in quella zona. Speriamo sempre, insomma, per una risoluzione pacifica. Vi voglio riproporre per l'ennesima volta un brano bellissimo di musica jazz, perché mi sono ascoltato tutto il CD in macchina, lo ammetto, e è veramente un album stupendo. Lui è Jack Herer Quintet, sentite qua che sonorità stupende, qua si suona alla grande e si sogna proprio con la musica jazz. Buon ascolto. vivamente consigliato l'album di Jack Herer Quintet, lo trovate su yamendo.com, basta cercare Jack Herer Quintet. Il titolo di questa canzone è Modal Sense ed è la traccia numero 1 che apre ufficialmente questo CD, che è stupendo. Io l'ho ascoltato in macchina, me lo sono masterizzato e ho fatto un viaggio proprio alla scoperta di grandi sonorità che spaziano insomma dal jazz al fusion, tutto in un'esibizione che non potete proprio perdervi. Se invece siete pigri e non volete scaricarvelo, comunque andate su yamendo.com, cercate Jack Herer Quintet e lo potete ascoltare direttamente dal sito, senza scaricare nulla lo potete ascoltare. Ribadisco che questa musica può essere tranquillamente scaricata, non vi preoccupate, il giorno dopo non avrete la polizia postale che vi bussa alla porta e vi fa toc toc, bene, hai scaricato materiale illegale, eccetera. È tutta musica Creative Commons che consente proprio l'ascolto e anche il download free, quindi non vi preoccupate, yamendo.com è il sito dove è che noi insomma attingiamo per proporvi questa trasmissione dal titolo Mangia Show. Settimana prossima magari apriremo anche un altro angolino e vi consiglieremo magari un CD per le vostre serate, magari sono quelle sere che in tele non c'è nulla, allora volete magari vedervi un bel film su DVD, non sapete che cosa vedere, bene, noi vi daremo questo consiglio, un CD a settimana per, diciamo così, invogliarvi alla visione di un film leggero che può essere comico, come anche magari, non so, dell'orrore poliziesco, eccetera eccetera. Cercheremo ovviamente di favorire il Made in Italy, perché insomma la nostra cinematografia è proprio eccelsa, ci sono stati dei grandi attori ed è giusto ricordarli, primo fra tutti il mio preferito Ugo Tognazzi, ma poi potrei citare anche Alberto Sordi, Vittorio Gasma, Manfredi, Totò, anche Franco e Ciccio. Qua bisognerebbe veramente fare una lunga lista, nominare anche magari gli attori di secondo piano, non proprio quelli importanti, ma chi è che faceva magari da spalla e non solo, o anche chi è che faceva dei piccoli ruoli, ma viene ricordato proprio magari nel nostro cinema. Tipo, non so, chi di voi si ricorda di Manuel Fantoni, di questo grande attore Angelo Infanti, scomparso proprio in questi mesi. Lui con questo personaggio veramente ha, diciamo così, reso grandiosa la pellicola Burotarco diretta dal giovanissimo Carlo Verdone. Settimana prossima apriremo proprio un angolo anche dedicato al cinema italiano, ma anche magari internazionale. Vi consiglieremo un DVD da non farvi scappare, magari se andate in qualche supermercato lo trovate, potete acquistarlo. Direi ora di mandare un jingle e poi purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Mandiamo subito un bel jingle. La web radio che stai ascoltando appartiene a Circuito Radio NetWeb, il primo network di musica copyleft. Eccoci, ahimè, giunti al termine di questo nostro viaggio alla scoperta, insomma, della musica Creative Commons, ma anche alla scoperta di notizie più o meno serie o meno serie. A condurre studio vi ha tenuto compagnia fino ad ora il Mangia. Vi ricordo ancora una volta il mio sito dove potete magari dialogare con me o semplicemente avere informazioni sulla mia persona, www.andreamangiarotti.com, è un blog dove scrivo degli articoli molto frivoli e dove mi diverto insomma a postare dei miei piccoli pensieri che possono spaziare dalla mia gioventù o anche al presente, insomma il tutto sempre fatto in modo molto molto amatoriale e goliardico, nei ritagli di tempo insomma della mia giornata, come anche questo programma viene, diciamo così, condiviso in diverse realtà radiofoniche in modo, direi così, goliardico. Io adoro definire insomma le mie produzioni goliardiche, tanto insomma per ricordare il periodo che fu la radiofonia anni 70, dove tutto, e anche anni 80, dove tutto veniva fatto principalmente per passione, non c'era niente di predestinato, eccetera eccetera. Invece oggi purtroppo le realtà importanti italiane, i network, insomma tutto è già scritto, no? C'è questo computer con la scaletta, però il web ci regala anche queste cose, ci permette insomma di fare radio proprio come si faceva negli anni 70, negli anni 80, dove principalmente c'era la passione e il divertimento. Oggi secondo me questo è venuto un po' meno, soprattutto per i network importanti, e per le radio locali sono sempre meno, non so cosa dirvi. Le radio locali invece, magari di essere radio locali, cercano invece di copiare i network. Vabbè, ragionamento un po' contorto, mi scuso, io sono arrivato in fondo, vi ringrazio per l'attenzione, ci ritroveremo, Dio piacendo, settimana prossima con un altro viaggio alla scoperta della musica Creative Commons e alla scoperta delle nostre notizie, delle nostre curiosità da tutto il mondo. Bene, che dirvi, vi ringrazio ancora una volta per essere rimasti in mia compagnia, noi ci troviamo ancora una volta qua, non scappo, all'interno del Mangia Show. Vi ricordo www.andreamangiarotti.com per ogni vostra considerazione, ovviamente è richiesta, gentilezza, educazione, la cosa è reciproca. Ciao, grazie a tutti, grazie veramente, ciao. Avete ascoltato il Mangia Show. Informazioni su www.andreamangiarotti.com. Alla prossima puntata. Se sei un artista indipendente e vuoi promuovere la tua musica, inviaci le tue produzioni al nostro indirizzo mail con Circuito Radio Net Web. La tua musica non avrà confini. Radio Oltrepò, solo il meglio della musica. You don't have to crush me, you don't have to put me down, you don't have to be the way you are. I know that it's hard, things are never what they seem. As life goes on, things might change, I hope I change my way. You say that I'm selfish, it's me I aim to please. I have no heart, do not care, there's no one else, just me. You don't have to crush me, you don't have to put me down, you don't have to be the way you are. Judged and tried me 10 times over, and you told me that I'm cheap. You've said that I should get a life, just leave. You don't have to crush me, you don't have to put me down, you don't have to crush me. See you happy, it seems you're bent on crushing me, crushing me, crushing me. It's the day after you burned me and the smoke still hasn't cleared. I don't know what to say. You brought a Schmidt.